Per quale motivo prendete l'autobus e come vi trovate sui mezzi di trasporto pubblico? Guarda, io abito abbastanza vicino al centro e l'autobus è un mezzo di trasporto molto comodo. Allora, prendo l'autobus perché è tra i mezzi pubblici, più comodi per spostarsi in città e più o meno si ha in tutte le fasce orarie. Ovviamente ci sono più linee di giorno, però comunque molte anche di sera e di notte, ed è anche abbastanza economico, soprattutto per gli studenti, soprattutto universitari, che hanno numerosi vantaggi per quanto riguarda gli abbonamenti. Allora, per quanto riguarda i mezzi pubblici, diciamo, gli autobus in particolare, che sono quelli con cui io personalmente mi sposto più frequentemente, soprattutto nelle zone, diciamo, più centrali, ritengo che siano molto molto comodi, sia da un punto di vista della, diciamo, del tempo, delle tempistiche, che magari rispetto a muoversi con una macchina, quindi avere a che fare con parcheggi e quant'altro. E sia magari anche rispetto a quei mezzi in sharing, come per esempio i monopattini o le biciclette, che sono sì comode per quanto riguarda diciamo, il voler arrivare esattamente nel punto in cui si vuole, ma se per esempio c'è maltempo diventa un po' un problema. E questo, diciamo che con gli autobus non è molto una problematica. E poi oltre a quello c'è anche il fatto che spostandosi con i mezzi pubblici si riduce anche l'inquinamento, quindi meno macchine, meno traffico e meno smog. Io prendo l'autobus perché piove o perché devo raggiungere una destinazione troppo lontana che non posso raggiungere con la mia fidata bicicletta, perché altrimenti appunto questo è il mezzo che prediligo. Lo trovo una valida alternativa all'auto, intanto perché da fuori sede non ho un'auto, ma anche perché è sicuramente più ecosostenibile e fa meno peggio all'ambiente. Non la prendo molto spesso, nel 2020 l'avrò preso tipo 2 volte, però ad esempio l'anno scorso per lavoro dovevo recarmi a Casalecchio una volta a settimana, quindi lo prendevo una volta a settimana. Vabbè, adesso è un po' un discorso a sé, però di solito sì, mi trovo abbastanza bene. Certo, non sempre gli orari vengono rispettati, magari a volte fanno dei giri lunghissimi per un tragitto che altrimenti avresti fatto in molto meno tempo. Ecco, una cosa che non mi va troppo a genio è che il biglietto costa un prezzo fisso, cioè sia che tu debba fare 2 fermate, sia che tu ne debba fare 20, paghi alla stessa maniera e insomma, non so. Principalmente prendo l'autobus soprattutto quando inizia a far freddo, quindi in questo periodo, e anche perché uscendo, abitando un po' fuori dal centro, mi viene molto più comodo prendere l'autobus in tardo pomeriggio, in modo tale che poi la sera posso tornare a casa in autobus. Ma allora, noi in famiglia siamo in tre con 2 macchine, di conseguenza uno dei tre resta comunque sprovvisto dalla macchina. Quello sprovvisto appunto sono io che prendo l'autobus perché mia madre, lavorando in ditta, ha un posto auto, mentre lavorando in città i posti comunque auto scarseggiano. Di conseguenza è più comodo prendere l'autobus, così non si ha appunto l'impegno di dover trovare parcheggio, arrivare prima per poterla parcheggiare, e soprattutto può essere anche una valida alternativa all'inquinamento comunque.